donna bionda non la voglio, no. La donna bionda non la voglio, no. Perché agli occhi da vagabonda la donna bionda non la voglio, no. Perché agli occhi da vagabonda la donna bionda non la voglio, no. Quella